Questo breve video è per presentare la playlist che abbiamo creato dal titolo Donne Kurgan, in modo da raccogliere tutto ciò che la nostra scuola ha letto sull'argomento, agevolandone l'ascolto. In questa playlist troverete Kurgan di Maria Gimbutas, il capitolo a loro dedicato tratto da Il calice e la spada di Rhiannon Eisler, il nostro speciale sulla mummia della sacerdotessa Kurgan di Altai, realizzato con Anastasia, figlia di Vera, e Donne guerriere di Janine Davis Kimball, che sembra dare una visione diversa da quella precedente. Infatti, se da un lato Maria Gimbutas e Rhiannon Eisler descrivono questi Kurgan come tribù patriarcali di guerrieri a cavallo che dalle steppe del Caucaso e della Mongolia invasero la nativa, pacifica cultura matrifocale dell'antica Europa, sdoganando la pratica della razzia e del combattimento e conquistando con la violenza, dall'altro Janine Davis Kimball negli anni 90 ha portato alla luce tombe che appartenevano sicuramente a donne Kurgan di potere, sacerdotesse, guerriere e regine che combattevano come i loro uomini e che dunque mitigherebbero l'aspetto patriarcale delle tribù guerriere. Sebbene le culture matrifocali antico-europee siano appartenute a un periodo precedente rispetto a quello dei Kurgan, le due teorie sembrano in contrasto. Dunque, le tribù Kurgan erano effettivamente patriarcali o vi erano donne di grande potere ascoltate e temute? Come scuola delle donne, l'idea che ci siamo fatte è che non si possa negare che ci siano state donne di potere Kurgan, ma che esse agissero in base a un comportamento maschile, competitivo, che sicuramente furono costrette ad adottare per sopravvivere in una società guerriera, per avere un loro ruolo e non essere calpestate. La modalità della razzia e dell'uccisione non ha nulla a che vedere con l'intima e autentica modalità di comportamento delle donne che per istinto la vita la preservano. Dunque, anche se ci furono donne guerriere a guidare le incursioni e le razzie, queste donne attuavano secondo un modello comportamentale non femminino. Pertanto, come scuola delle donne, non sentiamo di poter sostenere questo modello, ancorché ardimentoso, preferendo restare in risonanza col modello pacifico matrifocale che produsse le statuette della dea e gli enormi uteri di pietra che chiamiamo dolmen.